para analisar as relações Brasil-Itália, Domenico Silipoti. Este governo foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. La Zanzara. Era mai successo una catrua un sesso. A Monte Carlo. E beh, ve la ricordate, cari ascoltatori, questa canzoncina che mandammo in onda praticamente tutti i giorni nei momenti caldi dell'Affair Monte Carlo. E adesso voglio fare una domanda agli uomini di Futuro e Libertà, agli amici Bocchino, Granata, eccetera, eccetera, e forse anche allo stesso presidente Fini. Perché non si parla in queste ore, e lo dico anche a te, Parenzo, di macchina del fango e di metodo boffo? E per quello che riguarda i documenti pubblicati dal Fatto Quotidiano e dall'Espresso sulla Casa di Monte Carlo, che praticamente, come sai, attribuiscono la proprietà di questa casa al signor Giancarlo Tulliani? Come mai? Rispondimi subito, Parenzo, rispondimi. No, ma infatti hai poco da far polemica con me. Infatti non si tratta di... Non si tratta di macchina del fango. Ma e anche prima si trattava di macchina del fango, forse sei stato uno di quelli che ha detto... Sì, c'è una differenza fondamentale. E qual è la differenza? Che all'epoca fu usato l'affare di Monte Carlo per attaccare Fini, che ebbe l'onta di abbandonare Berlusconi e di far cadere quel governo. È la politica, notizia, la politica, la notizia rimane. Sì. Dopodiché parliamo di cose serie. Quello la è una politica cosa interna al è partito. Sangue e merda. Si utilizzano tutti i metodi, naturalmente quelli legali, quello è evidente, e tutte le armi per spiegare qualcosa degli avversari o per mettere alla berlina gli avversari politici. Un attimo, siamo solo all'inizio, non carità. Cominciare il tuo pippone come al solito. Non parlo più di questo dato che oggi Fini. Sono a lutto. Ma non me ne frega niente, stai tranquillo. Oddio, erotica, chi è? Donna protagonista cult movie Emanuele. Fini, non me ne importa niente a me di Emanuele. Fini disse, se Tulliani è il proprietario mi dimetto. Se dovesse emergere con certezza che Tulliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera, non per personali responsabilità che non ci sono. 25 settembre 2010, 24 febbraio 2011, vogliamo ricordare anche questo su Berlusconi? Io sono pronto a dimettermi da presidente della Camera nello stesso momento in cui Berlusconi si dimette da presidente del Consiglio. Ricordiamo. Ricordiamo. Ma c'è una differenza sostanziale comunque. Certo, c'è sempre un distinguo, una differenza. Tassone, Mario Tassone, lo sai chi è questa mattina? Grande show da Alessandro Milan. Signor Tassone, in Parlamento dal 1976. E dico 76 perché Pisano era 72, quello che dice che vuole fare il record di longevità. Tassone, signor Mario Tassone dell'UDC, dal 76, il partito della modernità, del Monti bis, eccetera, eccetera, eccetera, a Mario Tassone in Parlamento, il quale UDC dice il vitalizio 6.800 euro, una cosa modesta, il signor Tassone... Ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante molto modesto, ma hanno detto 6.800 euro. No, scusi, modesto, 6.800 euro. 6.800, sì, perché se lei pensa quanto prendono le liquidazioni di amministratore dell'Enel, delle ferrovie... Vuoi difendere anche Tassone? Ma io non è che difendo No, difendi anche umani. Tassone se vuoi. Ma io i casi umani mica li difendo. Vuoi difendere anche Tassone, ho capito. No, ho detto che non difendo i casi umani. Senti questa cosa di Tremonti. Senti che cosa ha detto a proposito della rottamazione. Dice, Renzi non mi piace perché anche Hitler e Mussolini erano giovani. Posso dire una stronzata? Renzi le piace? Francamente non molto, ecco. Vede, primo... L'età non è una questione seria. L'età è un difetto che si corregge solo con l'età. Anche perché i grandi politici erano vecchi e dei politici pessimi erano giovani. Hitler e Mussolini erano giovanissimi, Roosevelt e Churchill. Fiorito è giovane. E infine il caso del giorno. Ladies and gentlemen, il caso del giorno ha un nome e un cognome, Parenzo, e si chiama Daniela Santanchè. Certo. Un caso iniziato qui alla Zanzara e proseguito poi con un'intervista oggi al Foglio. Sentiamo prima la Zanzara l'altro giorno, azzerare tutti nel PDL. Credo che il PDL non ci sia più nel cuore degli italiani, bisogna avere il coraggio di azzerare e ripartire. Berlusconi ha fatto un passo indietro, ma perché d'Alfano in giù tutti coloro che hanno dei ruoli non fanno un passo indietro? Poi anche a TG4, quindi il Foglio, però voglio farvi sentire solo una reazione in voce, quella ieri sera, prima dell'intervista al Foglio, di Maurizio Lupi. Se vincono a Porta a Porta, se vincono la Santanchè e le Amazzoni, e chi sarebbero le Amazzoni? Questo sarebbe da chiedere a Lupi. Arriviamo al 2%, cioè la Santanchè ci porta al disastro. Questo vuole dire? Ci porta al 2. Se uno vuole rubare, quello ruba, lo devi prendere a calci nel sedere e mandarlo via. Quanti allora euro? Questa è la strada. Se invece vincono le Santanchè, le Amazzoni e tutti questi, ovviamente, voglio dire, fra un po' arriveremo al 2%. La donna del giorno è qui con noi, Daniela Santanchè, buonasera, ben ritrovata. Buonasera a lei e a tutti. Siamo costretti a richiamarla. Siamo costretti a richiamarla, che vogliamo fare qui? Mi dispiace se siete dispiaciuti. No, ma non siamo dispiaciuti per niente. Io almeno no, Parenzo forse. Non lo so. Stranamente delle cose sagge, ma andiamo subito al punto. Come stranamente delle cose sagge? No, sei d'accordo con la rottamazione della Santanchè? Beh, ha detto una cosa sacrosanta, cioè, ma mi piacerebbe sentire da lei come. No, però la prima cosa è questa che voglio chiedere. Alfano ha detto la linea è una linea sfascista, quella della Santanchè, noi ne abbiamo un'altra, sono inconciliabili. In sostanza ha detto, insomma, per te non c'è posto. Come risponde il signor Alfano? Lei ha già detto oggi che Alfano ha portato il partito da quanto, Santanchè? Io ho detto il 22, forse era il 24, e peggio mi sento perché oggi i sondaggi ci vedono navigare intorno al 15. Ma guarda, io le devo dire che sono molto dispiaciuta perché credo che sempre il confronto, il dibattito sia una cosa positiva. Invece questo attacco così nei confronti della mia persona, delle mie opinioni, mi dispiace. Perché vede, io penso che noi rappresentiamo la parte migliore del paese. Ma voi chi? Purtroppo non lo rappresenta più, cioè noi del centrodestra. Non lo rappresenta più il PDL perché ci ha attaccato dell'etichetta, l'ha fiorito in tanti altri casi. Cioè il PDL lei dice non rappresenta più il centrodestra, il simbolo del partito. No, non ho detto questo, ho detto noi che rappresentiamo il centrodestra, secondo me rappresentiamo la parte migliore del paese. Sì, vabbè. E il problema è che il PDL non lo rappresenta più perché abbiamo difeso l'indifendibile, abbiamo delle etichette attaccate, fiorite, potrei fare tanti altri nomi, per cui io non ce l'ho con nessuno. Rottamare non mi appartiene come termine. Però né lo voglio Alfano qui dice o io la Santa, anche questo dice in sostanza. Ma questo è veramente un peccato, io credo che ci sia un errore. Cioè il popolo del centrodestra, chi preferisce, Alfano o la Santanchè, secondo lei? Guardi, io le dico una cosa, sui tweet dei politici c'è un attacco assoluto nei miei confronti, tra i dei tweet, tra la gente, gli sms e le mail, e invece la gente mi dice Daniela forza vai avanti. Cioè la gente sta con me e non con Alfano, questa è la sostanza. No, io non dico questo, dico, che problema c'è, scusi, facciamo delle belle primarie, si candida Alfano, si candida la Santanchè, io non ho la presunzione di avere torto, non sono sfascista perché anzi voglio ricostruire. Cioè pensa di avere più voti di Alfano? Pensa di avere no, più? Io non lo penso questo, Cruciani. Io penso che non siamo nel cuore della gente. Io penso che è sbagliato dire fuori lei, dentro me, è una scelta. Io credo che invece dobbiamo essere tutti per lavorare in questo. Però scusi, onorevole Santanchè, se uno come Alfano vuole conservare ciò che non c'è più, vuole difendere quello che è indifendibile, me ne dispiaccio, perché credo che invece possiamo essere un grande movimento politico, però, scusi, rappresentare la maggioranza degli italiani. Però scusi, quando Alfano fa dichiarazioni di questo tipo, è rimasto a una cosa, è aggrappato a una cosa che è morta? Secondo me conserva ciò che è morto, invece lui deve avere la forza e avrebbe, se lo ritenesse necessario, tutto il mio aiuto per innovare. Per ma Berlusconi con chi sta? Diversa, Berlusconi con chi sta? Berlusconi. Io non lo so con chi sta Berlusconi, ma scusi, mi sembra che molte volte Berlusconi ha detto cambiamo il nome. Beh, dunque Berlusconi sta con lei, cioè no, lei ha, io questo non lo ha so, sentito Berlusconi dopo questa intervista che ha fatto in cui ha detto di azzerare no, tutto? Assolutamente no, ma guarda che io non sono Ambra con la radiolina, No, però Corsaro, Massimo Corsaro, che lei conosce bene, che è un dirigente del PDL, insomma, no. Vicepresidente credo della Lega parlamentari, dice quella che ha detto la linea di Santanchè è una stronzata, ma provo ancora a credere che sia solo farina del suo sacco, cioè dice in sostanza che lei parla per conto di Berlusconi. Ma questo mi dispiace molto, perché capisco che c'è un maschilismo, il maschilismo intimo, e che quindi gli uomini fanno fatica a pensare che le donne abbiano un cervello. E cioè Corsaro maschilista molto. Perché pensa ma non che... lo so, questi attacchi, Gaspari dice la plastica, Corsaro che dice questo. No, Saltamartini, un altro esponente del PDL, donna, dice che lei è un'oca, i cinguetti zittiscono l'oca. Ma questa roba qua mi dispiace veramente, perché pensi che io ho il rispetto delle opinioni di tutti. Iole Santelli, Iole Santelli le dà dell'urlatrice. Ecco, ma io invece pensi che mi dispiace, perché io siccome combatto il pensiero unico, sono per la politica delle differenze, con il rispetto dei pensieri di tutti, e voglio dire, e chi dice queste cose qua non perché lei ha detto la plastica mi piace moltissimo al Foglio, qualcuno ha pensato alla plastica, perché è un partito di plastica, nel senso che no, quando lei ha detto la plastica mi piace moltissimo tutti hanno pensato alla plastica come chirurgia come plastica, molti hanno pensato. Vabbè, ma Cruciani, se cade anche lei così... No, è una domanda, no, è una domanda. Perché ho fatto un elogio al partito di ma lo so benissimo. Il mio intervento, perché ho detto che noi ci troviamo... Che lei non oggi... sopporta i partiti strutturati, in questo senso? Ma io credo che dovremmo guardare all'America, ed essere dei movimenti. Parenzo, che vuoi dire? No, voglio capire, lei si sente isolata in questo momento nel partito, mi pare, perché non c'è nessuno che no, ha sostenuto... tra i dirigenti le sembra... questo è il punto. Ma io sa, più che i palazzi guardo le strade, però nel partito gente, è isolata. Guardo i mercati, sto con la gente, vado in giro, vedo cioè io sto con la gente, loro, gente loro sono dentro il palazzo, questo è il punto. No, ma io voglio dire, tutti insieme dobbiamo tornare per le strade, appassionare ma tutti la insieme, gente, ormai la divisione è chiara, però non si può. Ma voglio dire, mi manderanno una notifica che sono fuori dal PDL, se c'è ancora il PDL. Ma si aspetta che qualcuno la chiami lì per dire Danielina, ma stai calmo. Mina, hai sbagliato. Perché lei non ma cita io la... oggi guardi, ho ricevuto un sacco di telefonate, poi non faccio i nomi. Ma la Russa, per esempio, perché non l'ha citato? Ex-ministri che mi hanno chiamato e mi hanno detto Daniele ha ragione. Chi? Per dire, ex-ministri. Mi ha chiamato Martino e mi ha detto... condivido delle cose che hai, ma tanti altri. Vabbè, perché Martino lei non ha messo, perché Martino non ha messo tra i rottamandi. Ma io poi non diciamo. Faccio la spia, ma oggi non sono riuscita a rispondere a tutte telefonate di consiglieri, amministratori, sindaci, dirigenti che mi chiamano e tutto dice brava Daniela. Si sente un po' la Renzi del PDL? Ma guardi, io siccome non voglio rottamare, vabbè, ma dai, voglio usiamo... ripartire, innovare, però vede. Voglio dire, Renzi ha un merito, perché Renzi ha aperto un dibattito nel Partito Democratico che è importante, li sta facendo crescere. Sondaggio di Libero, di Libero.it, scontro tra Alfano e la Santanchè, voi con chi state? Con Alfano Santanchè, vogliamo vedere a che punto siamo, Parenzo? Vediamo. Vediamo, 56% Alfano, Santanchè 44%, ma questo è il sondaggio di Libero.it. Non ho capito, com'è il sondaggio? Sondaggio con Alfano 56%, con la Santanchè 44%. Sconto tra Alfano e la Santanchè, voi con chi state? Questo sul Libero. Comunque questo Alfano mi pare un po' in difficoltà, cioè Santanchè, molto in difficoltà. Scusi un attimo, ma vogliamo dire qualcosa ad Alfano? Cioè, abbia il coraggio almeno di mandarmi una lettera di licenziamento dopo quello che ha detto? Una lettera No, io dico che Alfano ha una grande chance di poter innovare completamente e di non conservare. Faccia lui il rottamatore, sì, io utilizzo questa parola, non me la contesti di nuovo però. Che no, tanto non abbiamo... faccia lui l'innovatore, io sono assolutamente dalla sua parte se innova, non beh, posso però lei stare ha detto... dalla sua parte se si arrocca in un bunker e vuole difendere ciò che non è però scusi, lei ha anche detto che uno che porta il partito da una certa percentuale fino al 15 lui mi ha detto che sono una sfascista ed è una cosa, siccome io ho sfasciato niente allora si è detto attento Angelino, cioè è lui che ha sfasciato, perché se tu dai a me della sfascista tu hai preso un partito al 24 e l'hai portato a 15 insomma, anche un po' di licenza Bisogna avere decenza, che... bisogna avere decenza a dire che la Santanchè è fascista piuttosto. Ma fascista di cosa, scusi? Io però... sono la dimostrazione sì. che la politica si può fare con ruolo, senza ruolo, al Parlamento, al governo, cioè. Perché per me la politica non è uno stipendio, non è una professione. Fini non si dimette, eh? Questa è l'ultima, l'ultima notizia. Ma capisce, quello è Pinocchio, cioè uno così, ma di che parliamo? Di che stiamo vabbè, adesso, parlando? Fini, la fine è un altro argomento. Non ne vuole più, ma ne pare che noi stiamo ancora lì a inseguire che Casini col cappello in mano e a Fini dell'apertura. Ma non lo so, la... a Monti, ieri sole 24 ore, il 70% del nostro elettorato è contro Monti. Però Berlusconi fino a poco, qualche settimana fa gli aveva detto, detto che andava... Berlusconi, lei sta parlando con la Santanchè, perché... Ma lui ha detto che lei porterebbe il partito al 2%, quindi... Ma io guardi, io porterei... Lei lo conosce Lupi? Lupi lo conosce? Così? Lupi, ma io dopo... direi che Lupi si deve occupare adesso un po' della regione Lombardia, di Comunione e Liberazione, Compagnia delle Opere, perché che insomma, i problemi siano tanti. Hanno, dei hanno dei problemi là, all'interno di quel mondo lì, no? Dopo quello sai, che... Io sono libera, posso parlare come credo, nel mio credo, perché non ho mai chiesto favori, non mi sono mai fatta niente. Ma c'è una donna niente. Del PDL che l'appoggia, chi qui tutte contro sto leggendo, la Meloni, no, l'ha detto prima, Carfagna, ex ministro, la Gelmini, no, la Gelmini ex ministro. Sta parlando di Martino, ha parlato. Ma anche la Gelmini. No, la Gelmini no, ha ragione, così ci facciamo solo del male, non disperdiamo l'impegno. Cioè, anche la Gelmini più o meno contro ma questa... Ma io le dico, io voglio essere nel cuore della gente, io non appartengo alle... Cioè, no, a lei dei dirigenti non gliene frega niente, insomma. Ma a me, io voglio dire, se i dirigenti capiscono che bisogna innovare, che dobbiamo fare, occupiamoci... Però io voglio capire una cosa, Berlusconi, conchista, mi dica, Berlusconi sta con me. Ma perché non lo chiama e non glielo chiede? Io come faccio a dire conchista? Ma lo sa lei, se lei, lo sa con chi sta certamente Berlusconi. Guardi, non sta con i ladri, perché Berlusconi l'ha accusato di quasi tutto, ma non di tutto. Vabbè. Nel senso che non l'ha mai accusato... di prendere i soldi e rubare i soldi agli italiani, scusi. Vabbè, adesso lasciamo per non sta con i ladri, non sta con i ladri, che un po' non ce ne frega niente, perché è normale che sia così, non stare con i ladri. Però, ma non è mica normale. Però voglio capire, normale. Cioè non sta con Fiorito, d'accordo, ma, ma non sta... solo non sta con Fiorito, guardi che Berlusconi si sente molto tradito. Secondo lei sta con Alfano? La politica non era mica questa. Cioè. Non sta in questa guerra che c'è, cioè è chiara, è mediata, lei conosce bene i media, tra lei e Alfano con chi sta secondo lei? No, questo non lo so, mi piacerebbe molto saperlo. Ma sta con lei. Ma secondo me sta con Berlusconi. Vabbè, e cioè? Berlusconi e cioè con chi sta? Vabbè. Questo lo scopriremo solo vivendo. Com'era la canzone? Lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho paura. Ho un po' paura. No, io non ce l'ho paura. No, non ce l'ho paura. Che questa avventura sta diventando... Sallusti sta diventando una cosa. Adesso cosa c'entra? Infili Sallusti ovunque, come al solito. Come tu sia sincero. Importante che sia... Bello, siamo alla radio. Lei si sente un po', sull'orlo di un burrone. Ecco, sì. Io mi sento che sto facendo una battaglia, come credo di aver fatto tanto. Però si sente un po' la Nikita, come titolo del foglio, la Nikita del Cali. Le battaglie si dicono, si perdono. Però vede, io posso sparare guardando una persona, ma negli occhi, mai alle spalle. Poi invece mi sparano alle spalle, ho qualche problema a difendermi. Ah, le sparano alle spalle, in tanti, eh? Il primo che le spara. Si capisce, perché tante cose che poi io dico le pensano in tante, ma sempre nel corridoio. Mi sparano alle spalle. Quando io dicevo Fini palle di velluto, quante me ne hanno dette? Eppure poi dice le palle di velluto ora. Attacca così Fini, Alfano ha le palle di velluto. Fini qua, Fini là. E alla fine ha avuto ragione lei. Oggi gli italiani cosa pensano di Fini? Che Pinocchio, che ha palle di velluto, che sotto il vestito niente. E voglio dire, però quando l'ho detto io, vi ricordate cosa me ne hanno detto? E come no? Senta, una frasetta però sulla Melandri che viene nominata al Museo del Maxi. Lei l'ha conosciuta forse a casa anche di Briatore, o sbaglio? Sì, io l'avevo vista una volta. Ma com'è questa nomina? Dal Parlamento al Museo, con tutte le ironie del caso? Ma sa, purtroppo io le devo dire, io sono contrario al posto fisso per i giovani, si figuri se voglio il posto fisso a vita per i politici. Io sono dentro, sono stata nel Parlamento, al governo, oggi non sono nel Parlamento, al governo e continuo a fare politica. Mi sparano alle spalle. Sa qual è la differenza? Qual è? Che non faccio politica per i soldi, la faccio per credo. Questi invece se perdono il posto perdono lo stipendio e per me non c'è questo problema, perché nella vita i soldi me li sono sempre guadagnati. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte, Beh, per chi se lo fosse perso, cari ascoltatori, ieri Emilio Fede, il signor Emilio Fede, Parenzo, cosa ha fatto in sostanza? Ha appoggiato D'Alema contro Renzi nella epica battaglia in corso all'interno del Partito Democratico. Ormai sembrano le primarie tra D'Alema e Renzi e non tra, esatto, Bersani e Renzi. Esatto. Prende posizione Emilio Fede. Vergognoso che un uomo che è stato un leader certamente simpatico, non simpatico, a conoscerlo è anche simpatico, si possa parlare di rottamare. A me, devo dire che a me questo Matteo Renzi mi rompe un po' le palle. Fini dice: i documenti non portano a nulla di nuovo, lo dice anche la procura in parte, e dunque non mi dimetto. Ma il problema non è la procura, le indagini, il problema è politico. È politico. La casa è o no nella disposizione, soprattutto è stata o no acquistata da Giancarlo Tulliani o dai suoi fiduciari? Sembra proprio di sì, e dunque Fini si dovrebbe dimettere, molto chiaro. No, ma attenzione, attenzione. Sì, cioè, dimmi. Fini si può dimettere, quello che deve fare. Sì. Ma stiamo facendo della cattiva informazione. Sì. E tu purtroppo ne sei complice. Avanti, dimmi, forza. Della macchinetta del fango. Ma quale macchinetta? Perché del la fango? Vicenda della casa di Monte sì, Carlo. Sì, ma adesso non stare a rimangare le cose, no, dal punto di vista. Dimmi, dico, dimmi. Semplicemente che è un problema interno del partito. Ma cosa, cioè, c'entra? Non me ne frega niente ormai. Non ha rubato soldi. Ma nessuno lo accusa di aver rubato. Nessuno si è fatto fregare. Ma nessuno accusa Fini di avere rubato dei quattrini. Allora, la vicenda della casa riguarderà gli ex AN. Cioè riguarderà gli iscritti a parte di AN. Che, a parte che AN viveva con i soldi pubblici in parte, no? Cioè, riguarda gli iscritti di AN quando si comprano dei beni. Oh, no, in questo caso c'era l'eredità, esatto, con Leoni. Era dentro, rientra dentro un asse. Non me ne frega niente, guarda, di questi dettagli. Nessuno accusa Fini di essere un ladro. Nessuno accusa Fini. Ma io non sto chiedendo nulla. Sei tutto contento. Ma è lui che ha detto. Lui ha detto due cose. No, io non sto godendo. Ha detto due cose. Mi dimetto se va via Berlusconi e non si è dimesso. Mi dimetto se si dimostra che la casa è di mio cognato e non si è dimesso. Ma di che parliamo? No, ma quindi, titoli del TG3, su, dai. Che si dimetta. Dai, titoli del TG3, su. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grecia in piazza contro i tagli, scontri ad Atene tra polizia e dimostranti, Molotov e lacrimogeni vicino al Parlamento, un uomo muore di infarto. Riunito il Consiglio europeo, la Merkel propone il diritto di veto sui bilanci dei paesi dell'Unione, no di Hollande, mediazione di Monti. Legge di stabilità nel mirino, le detrazioni, chi ha un mutuo casa può dire addio agli altri sconti fiscali, grilli, possibili modifiche. Daniela Santanchè, il PDL non c'è più, i vertici si dimettono e rivolta del partito, Alfano, linea sfascista, inconciliabile con la nostra. D'Alema, se alle primarie vince Bersani non mi ricandido, ma se prevale Renzi sarà battaglia, 22 Veltroniani, sostegno al segretario. Era stato appena licenziato, un uomo originario della Romania si dà fuoco davanti al Quirinale, è gravemente ustionato. Quarta udienza Grosseto all'incidente probatorio sul naufragio della Concordia, si difende per la prima volta in aula Schettino che attacca la Costa Crociere. Zanzare è quell'odioso insetto che non mi fa dormire. Ho il caso Giovanna Melandri, non è certamente il più grave in queste ore, per carità, ci sono tante cose. Però io faccio una piccola domanda, una piccolissima riflessione, una proprio piccola, cari ascoltatori della Zanzara, che siete tantissimi. La considerazione è questa: perché il ministro Ornaghi, il ministro dei beni culturali Ornaghi, deve andare a pescare proprio in Parlamento tra persone che sono in uscita dal Parlamento stesso, tra l'altro, no? Dopo tantissime legislature, il direttore di un importante museo. Perché proprio in Parlamento? Tra i futuri trombati, chiamiamoli così, perché proprio in Parlamento? Possibile che fosse l'unica competenza possibile? Io non nego le competenze dell'onorevole Melandri, per carità, come ex ministro dei beni culturali, per conoscenze, amicizie, relazioni, va bene tutto, mi va bene tutto. Però non è un po' strano? Non è un po' strano proprio in Parlamento? Perché non nell'università? Perché non tra i giovani talenti, quelli che vengono chiamati i cervelli italiani che fungono all'estero? Perché non tra i manager dell'arte, eccetera? No, un ex politico uscente dalla Camera. La Melandri non vuole rispondere sulle sue visite a Malindi qui alla Zanzara. Sentiamo. Ha letto cosa dice Briatore di lei? Cielo, però questa era una cosa che Di cui non voleva parlare? ma noi, no, noi, ma di solito, però, noi di solito parliamo proprio delle cose, di solito delle cose di cui le persone non vogliono parlare. Lo so. È stata da me in Kenya. No, che lasciamo perdere? Ormai siamo qui. È stata da me in Kenya. Mi avete chiamato dicendo che volevate parlare di Rai, di vigilanza. Dal giardino alla cantina. Poi a un certo punto ha messo giù il telefono e addio. Arrivederci Roma. Te saluti. Albertini su Tinto Brass, Laminetti riceverà una telefonata da Tinto Brass per un film. Aveva già detto la Zanzara prima delle dimissioni da Laminetti questa mattina ad Agorà. Sentiamo. Però non lo so se Albertini la giudica una buona notizia. No! Faccia sentire, sono curioso. Oh. No, è una splendida notizia perché adesso, come spero, ci sarà una telefonata di Tinto Brass che la inviterà a fare un bel film. Bravo, su Venere Callipigia, che guarderò con grande piacere. Bravissimo sindaco! Andiamo assieme a vedere il film. È la voce di Bughini, sottofondo. Mughini! Mughini! Mughini! Ma tu sai cosa ha fatto? Ma in questo caso non sono d'accordo con lui. Giù le mani dai capelli bianchi. Aspetta che te lo faccio dire. Un attimo solo. Giù le mani dai capelli bianchi. Però, caro Mughini, io ti voglio bene. Anche tu hai i capelli bianchi, fra poco ce li avrò anch'io. Però a un certo punto basta. Uno che è dal 72, dal 76 in Parlamento, ma non è per... magari può essere anche più bravo. Tanto non conta un cazzo stare in Parlamento. Non conta nulla, nulla, zero. La politica non è che la decide il parlamentare. Diciamola tutta, la decidono da altre parti. La Banca Centrale Europea, in Europa. I parlamenti contano sempre meno. Che ce frega se c'è... Però almeno facciamo prendere uno stipendio a un ragazzo di 35-40 anni. Tanto non contano un cazzo i parlamentari. Non contano più nulla. Ce ne fossero di altrettanti tra i giovani della politica. A me sta roba della rottamazione. Mi piace, eh? Anche perché, sai, la mia parola d'ordine: giù le mani da noi dei capelli bianchi. Che volevi dire? No, volevo dire perché Mughini in una puntata precedente della Zanzara mi ha attaccato dicendo: ma voi lo pagate quel Parenzo per dire queste cose? E sì. Oggi compro il giornale Libero diretto dal signor Belpietro e mi trovo in prima pagina un articolo del signor Mughini, sì, che tratta di questo tema: in treno con la mia BB. L'alta velocità accoglie i cani con tappeto e ciotola, finalmente archiviata l'era della deportazione. Mughini e la sua bibi. Cioè, vuoi dire Libero lo paga per scrivere queste stronzate? Questo vuoi dire? No, dillo apertamente, non avere paura. Lei mi ha tolto le parole di bocca. Chi se ne frega di BB, il cane di Mughini? Me ne fotto di BB e del cane di Mughini. Me ne fotto di BB. Adesso glielo riferisco, dato sta ascoltando. Chiamalo. No, non lo chiamo per carità di patria. No. Cioè, lui dice che c'era un problema per chi portava i cani, i cani sul treno. Tu dici chi se ne frega. Finalmente archiviata l'era della deportazione. Ma questo è il titolo, magari non c'è deportazione nel testo. No, io... È il suo pezzo. No, ma hai letto il titolo, credo, no? Tutto ho letto, c'è il pezzo. C'è la parola deportazione pure nel testo. Non faccio paragoni sacrileghi, sto leggendo il testo. Ma non riesco a non pensare agli ebrei parigini che nel 42 i nazisti costringevano a viaggiare. Questo mi pare effettivamente... Sono l'ultimo vagone della metropolitana, il cane BB di Mughini, BB! Non si chiama BB, mi dà nervoso solo il nome, BB! Ma che ci faresti col cane di Mughini tu, scusami? No, dimmi la verità, vai fino in fondo. No, perché io ho avuto da bambino... fossi un dirigente delle Ferrovie dello Stato e arriva Mughini col suo cane che sporca dappertutto, cosa fai? No, adoro i cani perché ho avuto un cane cocker quando ero bambino. Sì. Però di BB e di come viaggia me fotto. Così mi piaci, che fai battaglia, non che stai lì e fai il pappamolle. Ma che pappamolle? BB? Perché devo leggere di BB? Io vi voglio riproporre il signor Tassone, però, signor Tassone, lo cacci, Casini, lo cacci, faccia qualcosa, dica che non si ricandida più, lo fermi, lo blocchi. È dell'UDC, il partito del rinnovamento, partito della nuova Italia. C'è Tassone, però, uno dei dirigenti, che dice queste cose. Ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante molto legge. Modesto, mi hanno detto 6.800 euro. No, scusi, modesto, 6.800 euro. 6.800, sì, perché se lei pensa quanto prendono le liquidazioni di amministratore dell'Enel, delle ferrovie... Mi sono già sfogato su Tassone, Alessandro da Biella, buonasera. 19:28, tra poco abbiamo la borsa, però Alessandro da Biella lo voglio ascoltare. Alessandro. Sì, buonasera. Vada, vada, forte, rapido. Rapido, adesso abbiamo proprio sentito Tassone e prima abbiamo sentito la Santanchè, ma io mi chiedevo, ma perché invece di sollecitare gli ospiti alle solite cose, alle solite parole... Che dobbiamo fare invece? Dobbiamo ascoltare i professori universitari? Innanzitutto dobbiamo toccare nel vivo, primo... chiedendo di decurtarci lo stipendio, queste cose qua, primo. Seconda cosa volevo chiedere, come mai si sente così spesso la Santanchè in trasmissione? Perché fa notizia, non l'ha capito ancora, perché detta l'agenda politica ogni tanto all'interno del PDL soprattutto, l'ha capito o non l'ha capito? È chiaro oppure no? Ma questo è chiaro, è chiarissimo. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto. Ancora Mughini, cacci D'Alema per prendere chi? Cacci D'Alema per prendere chi? Ma perché Mughini non ha portato in televisione il caso di BB? Ah, tu doveva parlare del caso di BB. Doveva portare negli studi di Agorà BB. Voglio vedere la faccia di Vianello, dell'ottimo Vianello e dei suoi ospiti con questa BB che scorazza per lo studio. Abbia il coraggio di andare fino in fondo. Porti BB ad Agorà. BB ad Agorà. Cacci D'Alema per prendere chi? Dimmi chi? Dimmi quale brillante! D'Alema l'ha studiata la politica come l'aria che respirava, o no? Bisogna avere rispetto per gli anziani, dice D'Alema. Poi tu ti incazzi con Mughini quando c'è un vice deputato della Lega Nord alla Camera, un tale Maurizio Fugatti, che è stato anche ospite alla Zanzara, naturalmente. Per dire una serie di cose che non voglio nemmeno ricordare, il quale sostiene che ormai non siamo più in Europa ma nel Quarto Reich. La Merkel vuole il Quarto Reich. Certo, è una metafora, però viene evocato il Quarto Reich perché sai che la Merkel ha detto che l'Europa deve interessarsi dei bilanci nazionali, cosa secondo me assolutamente legittima, perché quando si cacciano i soldi anche per coprire, l'Europa caccia i soldi indirettamente per coprire i buchi della Sicilia, dove Lombardo prima delle elezioni assume 209 consiglieri, avete letto oggi sui giornali, 209 consiglieri in più. È giusto che la signora Merkel non si faccia fottere i quattrini dagli spendaccioni italiani, è giustissimo. Vabbè, fammi sentire D'Alema, su. Non è giusto, perché nessun paese del mondo, nessun partito, nessuna comunità si insultano le persone, diciamo, che sono... C'è persino un dovere di rispetto verso le persone anziane, diciamo. La Bindi è stata insultata da Berlusconi. Ha diritto ad essere difesa nel nostro, da quelli che condividono le sue idee. Lasciami dormire. Ormai è D'Alema versus Renzi, non più Bersani versus Renzi. Non so quanto faccia bene a Bersani, poi vedremo naturalmente nelle previsioni. Ma abbiamo qui chi? Uno dei miei conduttori preferiti, forse il conduttore preferito in questo momento, non solo per me, ma anche una cosa certificata dagli ascolti. Qualcuno dice cantare con l'orecchino, con i braccialetti, BB, eccetera. Ecco, che... noi BB, il cane di Mughini. Mamma mia, sei fissato. Adesso mi devi far diventare nemico anche Mughini, eh? No, però questa cosa che ha scritto su la deportazione. Gianluigi Paragone, buonasera. Buonasera. Partiamo, cosa canterà? Perché ormai è questa la cosa. Cosa canterà l'ultima parola domani sera? Tutti se lo chiedono, noi lo sappiamo in anteprima. Ecco qui. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe. Perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità. È bellissima questa canzone. Dio è morto di Guccini. Perché canterai? Perché canterai Dio è morto di Guccini? Perché si dice una politica che è solo far carriera, e vediamo che il dibattito politico ci sta offrendo anche questo spaccato. Abbiamo Pisanu che vuole concorrere per entrare nel Guinness dei primati. Abbiamo onorevoli come la Melandri che diventano, escono dal Parlamento, entrano nelle presidenze dei musei. Nei musei, abbiamo, appunto. Ce n'è. Abbiamo la Polverini oggi che si inventa un'altra bella operazione, andare contromano in via del Corso. Insomma, ne abbiamo. E poi abbiamo quest'altro concetto che ha mascherato la fede ma quale fede? Per alcuni anche la finanza è diventata una fede. Vabbè, insomma, Dio è morto, di Guccini racchiude tutto questo, però rifammi un po' quella strofa là, aspetta un attimo, ripartiamo, aspetta. Abbassa, vai, parti. Questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fede fatte, vai. Bene, è venuta bene questa, grazie Gianluigi Paragone, ultima parola domani sera, grazie. Ciao. E il terrorismo, la vita, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione, mai col torto, è un Dio che è morto. BB, io voglio BB sui treni, sempre, è finita la deportazione, è finita. Ma quale BB? Ma adesso io voglio, poi l'articolo è scritto benissimo perché Mughini scrive meravigliosamente. Ma uno, tutta, chi se ne frega del cane di Mughini? No, dillo. Io mi chiedo con assoluta umiltà. Ma lui si può permettere di scrivere del suo cane, questo è il punto. Con assoluta umiltà, visto che lui ha messo in discussione se io vengo pagato per dire le mie cose, io con umiltà chiedo, caro Giampiero, a te ti pagano per scrivere di mi, chiedimi. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso... Antonio dalla provincia di Siracusa, buonasera. Buonasera a voi. Vada. È un po' che ascoltavo, sì, benissimo, complimenti. No, io ho telefonato perché l'altra sera ho sentito Grillo a Noto, in una cittadina barocca dell'UNESCO. Sì, la conosco, la conosco bene Noto, non si preoccupi. Sì. E allora è stato un grande show che da 10 anni forse non vedevo. Beh, lo show di un comico, spettacoli. No? Lo show di un comico. Sì, ma proprio da 10 anni che non vedevo uno spettacolo del genere. Però devo dire ai radioascoltatori siciliani, perché ce n'erano anche dalla Sicilia in camper a vedere lui. Sì, sì. Che lui un po' nasconde la senavere quando dice sì, vabbè, gli americani hanno portato la mafia. Portò la mafia prima dello sbarco. Vabbè, adesso non ci faccia la ricostruzione storica degli... le popolazioni ho capito, Antonio, chi se ne frega di questi dettagli, chi ha portato la mafia, quello che ha citato Grillo, che ci vuole dire? Non è che può fare lo storico al posto di Grillo adesso. No, io per carità le faccio i complimenti perché è un grande comico, l'ho detto anche... Però dice ha sbagliato sulla storia della Sicilia, questo vuole dire? Sì, poi vabbè, lui è... ma è lì uno quando sta sul palco è un po' tranchant, taglia... taglia le cose sì, in maniera un po' brutale su. Prima, scusa Cruciani, i comizi delle ho capito, prima, ma che gliene frega alla gente dei ricordi storici di Grillo sulla Sicilia, ma scusa, abbia pazienza, Antonio, su, mi dici che ha sbarcato una sua nave qui, no, non va bene, grazie Antonio, grazie. Carlo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Volevo sentire da David Parenzo, no? Le scuse all'onorevole Crolla, perché ieri mi sa che è un pochino titubato. Ma sì, le ha fatte, Carlo. Allora, più che altro perché con i tempi che corrono non vorrei le ha fatte, che magari... Ho detto, ha fatto una stronzata Parenzo ieri, ha fatto un errore, ha chiesto scusa, punto e basta. Non è che siamo perfetti. No, allora qui non siamo non perfetti, sentito. Carlo, non siamo perfetti e nessuno dice di essere ma perfetto. Mancherebbe. Lei no, commette errori nella vita, li commettiamo anche noi. Non volevo che magari, caso Sallusti Doget, che magari poteva finire a San Vittore anche lui. Ecco, ma no, ma che... Facevate la trasmissione con David a San Vittore. Ma no, ha commesso un errore su un avvocato. Magari... riusciva a fare delle interviste anche da lì. Non si preoccupi, grazie Carlo, grazie. Prego. Giuseppe, provincia di Catania, ancora Sicilia. Sì, Cruciani, buonasera. Vada. Io intervengo sempre quando c'è Biancaneve e i Sette Nani. Chi è Biancaneve e i Sette Nani? Audience, quindi buon chi è Biancaneve e i Sette Nani? È la Sant'Anchè. Ah, la Sant'Anchè. Allora? Proprio, essendo uscita da una fiaba o da un cartone animato. Sì. Ma va bene così. Ci vogliono anche questi personaggi. Ascolti, Cruciani, sì. Voi prendete tutto con leggerezza ed è giusto perché così si passa un po' di tempo ed è piacevole ascoltarvi. E invece? Ma qui dalla Sicilia c'è da lanciare invece un grido di dolore serio, serio, perché noi adesso in questi giorni abbiamo Grillo. Sì. Ora io ammiro Grillo perché si sta facendo un mazzo così a girare tutti i paesi e ci va più gente che alla festa del patrono, addirittura. Ma gli altri, quelli che litigano, dove sono? perché non vengono qui in Sicilia a fare campagna elettorale? Vabbè, ma la campagna elettorale, non si preoccupi, la campagna elettorale in Sicilia, i candidati siciliani la fanno e come? Non si preoccupi, i vari Musumeci, Miciche, a parte le piazze vuote in qualche caso, ma la fanno la campagna elettorale, guardi, per prendere i voti la campagna elettorale si fa, non si preoccupi, magari non vengono i leader oppure verranno, si vota il 28 ottobre, c'è tempo. Sicilia si decide il futuro dell'Italia come. Vabbè, non esageriamo sul futuro dell'Italia, su queste. Ma si rende conto che il PD ha fatto un accordo col partito di Cuffaro? Sì, vabbè, col partito di Cuffaro. Non è una cosa. Cuffaro è in galera intanto. Cuffaro è in galera, non è lì a piede libero. Dunque, non è più il partito di Cuffaro, col partito che fu di Cuffaro, diciamo, no? Che fu di Cuffaro, ma se l'UDC ha quella consistenza in Italia, andiamo a vedere i numeri, era perché era forte in Sicilia. Va bene, Giuseppe, grazie. Comunque non decideranno le sorti dell'Italia, ormai la situazione è così slabbrata, così caotica, così anarcoide che non si capisce nulla. Mario dalla provincia di Pisa, buonasera, Mario. Buonasera, volevo chiedere a proposito dell'onorevole Tassone, che si meraviglia di 6.800 euro al mese quando ci sono i laureati che ne prendono 700. Sì. Ma una vergogna. Cosa una vergogna? Ma non è vergogna. Lo so, glielo dica a lui, si vergogni. Lo dica a Casini, che è il suo, che è il suo titolare. Casini, diglielo! Licenzialo! E soprattutto gli italiani, a parte, si meritano questi rappresentanti perché il popolo italiano è quel che è. La classe politica rispecchia esattamente il popolo italiano. Ognuno si merita quello, il proprio governante. Se lui è 80 anni che è in Parlamento, vuol dire che ce lo meritiamo. Per cui, cioè, è uno sfogo così, tanto per. Va bene, Mario, grazie. Piercarlo da Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani. Breve, giusto per sapere se il garantismo di Parenzo è sempre a senso unico. Dato che, appunto. Su che cosa? Su quell'argomento, mi scusi? Su Fini, sì. Dato che appunto parlava di problemi di partito. Ma qui il problema è politico, non è questione appunto, di garantismo, non c'entra appunto, niente. Appunto. No, lui parla di soldi del partito e qui e là. Io vorrei che avesse parlato di soldi del partito anche quando si è trattato delle vacanze in casa Lega. E che sono spariti i soldi. Sì, ma lì è un'altra cosa, sono spariti i soldi pubblici sono spariti, è comunque un'altra cosa, la casa è una questione interna dell'Alleanza Nazionale. È una donazione privata. Sì, ma siamo d'accordo, dopodiché la gravità della cosa resta tutta, secondo me, e soprattutto le frasi, ma nessuno sta difendendo. Io una persona che fa l'uso che vuole dei soldi del partito, non erano soldi suoi, non poteva assolutamente prendere i soldi del partito e vendere una casa a quella maniera. Un attimo solo. Squilla il telefono della zanzara. Ma chi stai chiamando, BB? No, stai tranquillo. Tranquillissimo. Pronto? Nicole? Sì. Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Ciao. Come stai? Ciao. Bene, grazie. Senti, ma questa cosa di Tinto Brass, mi vuoi dire una cosa su questa cosa di Tinto Brass che ha detto Albertini, che ti farebbe fare un film con Tinto Brass? Non ho visto né sentito nulla. Ma non hai sentito Albertini? Conosci Albertini, sì. Albertini, sì, certo. Albertini, l'ex sindaco di Milano. Dai, sto scherzando, certo, sì. No, non ho capito, sono in diretta. Cosa mi vuoi chiedere? Ma sì, no, ma due domande, non ti preoccupare. Non ti metto in mezzo. Albertini, Albertini ha detto, la vedo bene in un film di Tinto Brass. Queste ne dicono tante. No, vabbè, dimmi. Ormai non mi sconvolge più niente, non mi sciocca più nulla. Ma lo faresti un film con Tinto Brass, no? Ma dai, ma che domande mi fai? Ma no, vabbè, con tutto il rispetto per Tinto Brass, cioè nel senso, non è che certo. Assolutamente ci mancherebbe non altro. Lo faresti però? No, al momento no. Al momento no. Ma dai, non lo farei, no. Senti, ma la firma, la famosa firma, l'hai messa sì o no? È certo che l'ho messa. Ah, come tutti ma dici, tanto no? Lo sapete tutti che l'ho già messa. No, ma noi non sappiamo niente, siamo gli ultimi a saperlo, lo sai. Cioè. Ma va, siete sempre i primi a sapere tutto. Sapete prima voi degli altri, sapete prima voi di me. Senti, ma basta con la politica allora, dopo questa firma? No, ma cosa c'entra? No, assolutamente, sono due cose nella maniera più assoluta scollegate. Cioè, vuoi continuare a fare politica? Che ne so, vuoi continuare a fare politica? Dai, ti saluto. Mi no, ma questa dai, è una domanda. È facile. Ho incontrato un mio amico. È facile, facile questa. È facile, è facile, facile. La risposta è facile. Nicole, è facile la risposta. Ma non era difficile la risposta in questo caso. Però, eh? La notizia è che Nicole. Non vuole fare un film con Tinto Brass. Due punti, aperte virgolette. Ti voglio bene, Cruciani. Cioè, io su questo chiederei a Boccassini di avere un fascicolo, però. Perché ti voglio bene, Cruciani, ha detto la signora. Ah no, vi voglio bene. Agli amici della regia, detto... al nostro amico Riccardo. No, stai zitto. Ha detto vi voglio bene. Che tu difendi BB. Zitto, chi difende BB non può parlare per due secondi. Caro Riccardo Poli che sei dietro il vetro, isolami, ti voglio bene della Minetti a signor Cruciani e fai portare tutto in procura a Milano. Ma che c'entra la procura? Subito, cosa c'entra la procura? Subito, subito. Giovanni d'Ascoli Piceno, comunque vuole continuare a fare politica, da quello che ho capito io. Amico mio, amico mio, non finisce qui, uno sembra finita, non finisce qui, never ending story, Giovanni d'Ascoli Piceno. Sì. Buonasera, dottor Cruciani. Sì. Dunque, io volevo intervenire sulle frasi della Santanchè. Il PDL è finito. Non riesco a capire se è una dialettica raffinata oppure il PDL è finito. Non ci sono più i voti del PDL. Non riesco a capirlo. Perché... No, ma scusi un attimo, cosa deve capire lei? La Santanchè dice che il PDL è finito e morto, altri dicono allora di no. Ci sono più voti del PDL. Ma ho capito, ma il PDL, adesso diciamo la verità, un partito che era al 30, quello che era, 26, 28, 29, non lo so nemmeno. Ma è arrivato al 15. E che è arrivato secondo i sondaggi al 15, secondo i sondaggi al 15. E potrebbe andare peggio oppure meglio, non lo so. E, insomma, qualche problema se lo deve porre o no? Qualche interrogativo oppure questo no? È matematicamente certo. La Santanchè dice che bisogna far fuori tutta la classe dirigente attuale perché è stata è responsabile di questo disastro. Altri... Ma dico, no, consiglio la Santanchè. Sì. Non è la classe dirigente. Vabbè, quella è la base che soppica tanto. Cioè, in che senso la base? La base sono le diverse sezioni dei diversi comuni, delle diverse province, che zoppica in un modo terribile, perché in molti casi, in alcune sezioni, in alcune realtà di alcune città, ci sono delle vere e proprie, come dire, dei veri e propri reucci che fanno il buono e il cattivo tempo e non danno più respiro a una realtà liberale e politica del PDL. E io ne sono una. Vabbè, però Giovanni, scusi un attimo, adesso va bene tutto, però noi possiamo stare sulla realtà locale del PDL. Cosa ci vuole? Mi dia un pensiero sintetico, dato che lei mi sembra sia un dirigente locale del PDL. Se non fa la sintesi. Non lo è più. Non lo è più, in che senso? Scusa. No, mi hanno fatto fuori quando ho fatto alcune domande sui fondi al partito. Per esempio, che domande ha fatto? Prego, beh, allora se mi chiama Giovanni anonimo d'Ascoli Piceno non ha manco il coraggio di dire che domande ha fatto, abbia pazienza, chiuda il telefono, non ci rompa le scatole. C'erano alcune sezioni che non avevano ricevuto quello che era dovuto alla sezione. Vabbè, allora? No, non io, attenzione. Sì, allora? Allora vabbè, cose locali, su, cose locali, minchiate locali. Cose locali. Minchiate però locali. Comunque sì. Cioè, è la struttura che a un certo punto i dirigenti dovrebbero rivedere la struttura. Benissimo. Andrea da Firenze, grazie Giovanni, se ci ha chiamato per dire che i dirigenti devono rivedere la struttura, stiamo freschi. Buonasera, Andrea da Firenze, buonasera. Senta, io ho telefonato anche l'altro giorno parlando di Renzi e dissi che era un bluff. Era un bluff. E adesso invece dopo vari giorni di distanza? No, oggi è ancora peggio. Perché che ha fatto sto povero Renzi stasera? No, cosa ho fatto io? Oggi ero in centro, guarda caso in una strada che è una strada proprio del centro che dà su via dei Calzaioli, sì. Ci sono delle buche e sembra un percorso da motocross e io ci sono cascato in pieno e mi sono vabbè, fatto adesso una buca a Firenze è colpa del sindaco, su Andrea. No, un momento. Oddio. Ora io mi domando questo, se un sindaco che va in giro e fa migliaia di chilometri in giro dicendo che non sono tutti buoni. Non è all'altezza di far gestire qualche chilometro di strada lastricata. Vorrei sapere come può fare, come può gestire un percorso di guerra come è l'Italia. Ecco, lui si può candidare a premier in un'Italia, essendo un percorso sì, però, di guerra. Però Andrea, abbia pazienza, adesso non stiamo a fare, io non posso qui fare il conto delle buche che ci sono a Firenze, dandone la responsabilità. No, ho capito, lo fa io lei. Cioè lei dice che Firenze è una città amministrata male, così che dice? Sicuramente. Benissimo. Sì. Grazie. Maurizio da Roma, buonasera. Siccome il giudizio sull'amministrazione di Firenze lo danno i fiorentini al momento del voto, quando Renzi si ripresenterà, se si ripresenterà sindaco di Firenze, dopo tutto quello che sta succedendo, i fiorentini lo bastoneranno se avrà amministrato male. Questa è l'unica cosa che conta, a meno che di cose clamorose, naturalmente. Ma non mi pare una città piena di buche con la gente che cade sotto i tombini. Eccoci qui, insomma, la notizia che viene fuori questa sera, caro Parenzo, è che nonostante quello che dice Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, Nicole Minetti potrebbe continuare a fare politica. Altro che Tinto Brass. Certo, lì che abbandono, cioè magari molla il consiglio regionale, ma chissà. Ti voglio bene. Vi voglio bene, l'hai sentito bene, te lo faccio risentire. No, aspetta, buffone, aspetta, senti. Vi voglio bene, vi voglio bene, vi adoro, vi, anche tu sei in mezzo, non ti tirare indietro, anche tu fai parte del circo, Nicole Minetti, anche tu fai parte di questo circo. Tre persone costituiscono l'associazione, capito? Comunque. Sì, ma non avere paura. Insomma, ma non avere paura, certi, non c'è niente. Piacciono certi ambienti. Ma quali ambienti? Ma comunque, di che parli? Andiamo avanti. Antonio da Teramo. È BB in treno, il cane di Mulini. Antonio da Teramo, buonasera. Ha preso un'ossessione oggi. Pronto? Sì, vada. Pronto? Sì, però se non parla è complicato. Ah, sì. Sant'Anché. Dice di essere un'imprenditrice. Sì. Ma dove cacchio lo trova tutto il tempo che passa in TV e alla radio? Poi, i partiti. Sì. Un vero bordello. Sì. Viva la rivoluzione francese. Solo che gli italiani non hanno le palle. Ma che vuol dire non hanno le palle? Non hanno le palle. Perché se avessero le palle, sciopererebbe non per la CGIL, la UIL, la FIOM. Non vanno a votare, punto. Grazie, buonasera Cruciani. Buonasera, ma qui siamo alla follia. Matteo da Modena, buonasera Matteo. Anche il bello del buonasera. Sì, vogliamo sentire l'anticipazione fra poco, risentire l'anticipazione di Gianluigi Paragone al domani, cosa canterà l'ultima parola? Sì. Fra poco la risentiamo, in anteprima la zanzara. Matteo, dica. No, purtroppo mi ha anticipato questo spettatore. Volevo dire una domanda semplicissima, se secondo lei la rivoluzione in Italia non si può fare perché non ce n'è bisogno? Oppure perché gli italiani non ne sarebbero capaci? Non ho capito nulla, scusi Matteo. Secondo lei la rivoluzione qui in Italia? Ma quale rivoluzione? Ma non c'è bisogno di nessuna rivoluzione, Matteo. Non c'è bisogno di nessuna rivoluzione. Siamo nel mondo civilizzato, nell'Occidente. Quale rivoluzione bisogna fare? Quale? Di che cosa? Ecco appunto. Basta con queste stronzate. La rivoluzione. Bisogna fare la rivoluzione. Ma cosa? Quale rivoluzione? Ecco appunto. Lei vive male? Ecco appunto, vivere in questo mondo occidentale avanzato. Non ci vuole vivere. Con questa storia della democrazia mi ci curerei il culo e prenderei questa gente e la menerei a sangue. Sì, bravo. Lei è un po' frustrato, però. Mi pare evidente che lei è un po' frustrato. No, lo sa che in alcuni posti in Italia ancora non c'è la linea Wi-Fi? Sì, ma questo che c'entra? Questo qua è evidente. Le nostre responsabilità da questo punto di vista sono evidenti, cioè non c'è dubbio. Ma lei ha ragione su questo, ha perfettamente ragione, però non ci rompa le scatole con la rivoluzione, a meno che non sia una metafora per dire ci vuole una rivoluzione digitale, allora siamo d'accordo, ma non la rivoluzione con i forconi, ha capito? Perché? Che cosa ci sarebbe di male a picchiare questa gente? Ma picchiare cosa? Su, ma lei vuole l'Italia digitale e poi vuole picchiare le persone, ma lei è bipolare. È bagata in testa. Sì, perché quando una persona vede uscire fiorito, bello sorridente, così dopo che ha fottuto dei soldi agli italiani, invece di uscire bello sorridente viene preso e picchiato. Preso e picchiato, e questa sarebbe la sua rivoluzione? questa sarebbe la sua rivoluzione. Sa perché questa gente ha questo atteggiamento? Perché sanno che tanto rimarranno impuniti, non succede mai nulla. Secondo lei Fioretti in carcere è in una di quelle celle dove ci sono 5-6 tunisini tutti ammassati, dove gente dorme per terra o dorme in una cella? Ma non lo so, Matteo, ma non se la prenda col povero Fiorito in galera, su Matteo. Ma che galera? Adesso chiamiamo il professore, chiamiamo il professore, ma quale? È una villeggiatura. Chiamiamo il professore, mi sono rotto le scatole, il grande professore, il professore Carlo Daormina, il difensore Carlo Daormina, certo. Chiamiamolo, subito chiamiamolo. Gianluca da Genova, buonasera. Matteo, comunque la sua rivoluzione. Lei ha un cervello strano, perché dice la rivoluzione digitale, giusto, per carità, no? L'Italia è sicuramente indietro, lo dicono tutte le statistiche. Poi però dice che bisogna prendere Fiorito e farlo picchiare dalla gente. Ma questa sarebbe la sua modernità. Ma lei ha un cervello che, insomma, no? Bagato in testa. È bagato in testa. Professore, chi è? È Carlo. Carlo. Ma l'hai avvisato? Ma che avvisato? Ma quando vai? Ma come, quando è impegnato magari? Ma che ne so, è uguale. Pronto? Professore? Carlo? Sì. Chi è? La Zanzara, in diretta. Come stai? Vuoi bene, dimmi. Allora, che novità ci sono? Stavi lavorando? Stavi lavorando, professore? Stavo lavorando, sì. Che succede? Ma mi fate sempre piacere. Scusa, professore, ma che succede? Che c'è di nuovo? Perché non si parla più di Fiorito. Come stai in carcere? Fiorito sta, diciamo così, in riflessione. In riflessione. Sta preparando, ti credo, in carcere, te credo, c'ha tempo. Sta preparando un libro. Come un libro? Che pubblicherà appena uscita dal carcere. Ah, questa è una notizia. Nel quale svelerà un po' tutte le situazioni nelle quali si è trovato immerso in questi ultimi 2 anni per la regione Lazio. C'è cioè, una sorta di Istanbul, dici? Un Istanbul, sì. Un Istanbul. Ma già avete trovato l'editore, come dice Parenzo? Ma l'editore ci cerca, non è che... Addirittura. Mondadori. Mondadori mi sembra un classico, no? Vediamo. Cioè, vediamo. Chi offre di più, naturalmente? Sicuramente pubblicato. Chi offre di più, mi sembra chiaro. No, non è problema assolutamente di... Non c'è nessuna pretesa di carattere... Economico, di diritto d'autore, eccetera, no, assolutamente. Ma no. Che cosa ci sarà in questo Istanbul? Istanbul ci sarà la ricostruzione della sua storia politica. Sì? Ci sarà l'indicazione dei malesseri nei quali si è trovato nel periodo in cui è stato in regione. Sì? Da racconto... Sarà un atto d'accusa nei confronti di qualcuno. Racconto dei, come dire, dei benefici risultati che la vicenda giudiziaria ha portato tutto sommato nella sua vita. Come? Sta in carcere? Va bene, ma sai, il carcere può servire anche per meditare, per riconoscere una parte del percorso di vita non sia stato quello. Scusa, professore, stai dicendo che sta bene in carcere? In fin dei conti sta bene? No, non sto dicendo che sta bene, sto dicendo che è stata un'esperienza molto utile e che ce lo restituirà chi interessa. Ma quando può uscire? Quando può uscire secondo te? Così facciamo. Mi auguro prima possibile, insomma, non posso fare una previsione, certamente. Certo. In settimana prossima dovrebbe essere interrogato e da lì potrebbe scaturire. Ma scusa, avvocato, questa festa famosa dei maiali, no? Questa di De Romanis, sì, no? Di De Romanis. Ci sono novità da questo punto di vista? No, nessuna novità, se non quello che abbiamo sempre detto e che siamo in grado di dimostrare. Per quello che De Romanis dice, noi siamo in possesso di una fattura per 4.800 euro che è riferita alla festa fatta al Foro Italico, che è esattamente quella dei maiali. C'è la fattura, questa è la cosa. Abbiamo la fattura, sì. C'è la fattura che dimostra che la festa in parte è stata finanziata con i gruppi della regione. Sul resto il problema è interpretativo, perché ci sono altri contributi che sono stati dati allo stesso De Romanis per il Partito Popolare Europeo dei Giovani, eccetera, e che bisogna poi stabilire come sono stati utilizzati, e quindi si tratterà. Ma anche secondo te tutta la festa è stata finanziata con i soldi del gruppo? Diciamo, ma dai, le opinioni non contano, sono i fatti che devono parlare. Ma è un po' tutta la zozzeria, mi pare. Su questo non ci sono dubbi, come dire. È assolutamente pacifico, ma c'è molto di più di quello che in questo momento si sa, C'è molto di più in che cosa? Nelle carte che c'hai in mano? Tutto, in tutto, cioè voglio dire, la vicenda, diciamo, per così è conosciuta nelle grandi linee, ma sì. se i magistrati vogliono approfondire in tutte le direzioni di tutti i partiti e in sì. tutte le direzioni delle ma per esempio della, sull'Italia dei Valori della, sull'Italia dei Valori cosa hai da dire? Cosa hai da dire su questo Maruccio? In tutte le direzioni anche dell'organizzazione regionale sì. quindi da giunte ufficio di presidenza sì, e, sì. e consiglio regionale sì vabbè quindi, comunque che c'è però l'importante è ottenere anche attraverso la, diciamo così la richiesta per via di mediatica sì. ottenere che la Procura Repubblica di Roma che faccia? Faccia il suo dovere fino in fondo, cioè che quindi cioè non c'è questa, solo Fiorito da... questa che è una svolta, ma stanno tutti, questa è una svolta tutti, certo. che ecco. Ma quando sei andato a trovare l'ultima volta la grande soddisfazione di Fiorito sarebbe quella di vedere radere al suolo tutta questa situazione, perché dimostrerebbe cioè quanto... radere al suolo in che senso, scusa? Radere al suolo nel senso che cioè ci vuole altra gente in galera, diciamo la verità. Altra gente in galera, io sai che da avvocato non auguro la galera a nessuno, però avendola avuta Fiorito credo che sia opportuno che anche altri assaggino la stessa minestra. Beh, è chiaro. Sì, ma per esempio, questa lettera di Battistoni, no? Che dice che avrebbe spedito il fatto ipotizza cosa... il fatto ipotizza che Berlusconi sapesse tutto anche della gestione di questi soldi. Tu che dici? Allora, dico questo, la lettera di Battistoni arriva, mi pare, nei primi di agosto, quindi sì. l'operazione completamente esaurita, perché... Ma Berlusconi denuncia, sapeva tutto o no? La prima... io questo non lo so se sapeva tutto, ma certamente ha saputo dopo, non prima, questo è sicuro, perché ad agosto già si era consumata tutta la contrapposizione tra Battistoni e Fiorito, la prima lettera, quella vera, quella che ha scatenato sì. il putiferio, è stata quella di Fiorito del 18 luglio, con la quale ha dichiarato, ha detto a tutti i componenti del gruppo. No, non sai se Berlusconi sapeva o no. Non sai se Berlusconi sapeva o no. No, non posso saperlo. Posso sapere con certezza, sulla base della data sì. nella quale è stata mandata la lettera, che ormai tutto si era consumato. Ecco, quindi, ma come sta dentro la galera? Dentro la galera, come si trova? Si trova con il disagio di tutti i detenuti. Vabbè, però siccome è una persona intelligente sì. ed è una persona. Ma è dimagrito? Un pochino è dimagrito. Pochino, ma quando sei stato l'ultima volta a trovarlo? È una persona. Ieri. Sei stato sempre come al solito controvoglia, va in carcere, no? Beh, io in carcere vado sempre controvoglia, però purtroppo è importante, perché gli avevo dato tutte le carte del processo da studiare e quindi aveva fatto un'analisi accurata, dalla quale sono venute fuori molte belle novità. Quindi qualcuno deve tremare ora. Qualcuno deve tremare. Ma guarda, io penso che tremino già da tempo, però c'è il primo che deve tremare. Chi è il primo che può temere? Chi è? Facciamo nomi e cognomi. Su, no, non facciamo né nomi né cognomi. Dico soltanto una cosa: c'è stata una battuta d'arresto dovuta alla scomparsa di Caperna. Che indubbiamente, il magistrato, certo. Questo è stato un grosso colpo. Certo. Ma perché non prendi avvocato come consulente per fare indagini ulteriori? L'ex capo del RIS di Parma. Il signor Gardano. No, che c'entra, ma lui fa qui, non ci stanno questo omicidi. Che c'entra, su, che c'entra. Non ci stanno omicidi, ci stanno cose diverse. Vabbè, professore, a presto. A presto anche per voi. Eccoci qui, 20:14, Alessandro Milan alla trasmissione 24 mattino fa dimettere da un incarico un deputato. Mario Tassone si è dimesso da vice capogruppo dell'UDC alla Camera dei Deputati. Bravo Milan. Il signor Tassone, riascoltiamo il signor Tassone che ha rassegnato le sue dimissioni da vice capogruppo dell'UDC alla Camera dei Deputati dopo le dichiarazioni di oggi in cui aveva definito modesta la futura pensione da 6.800 euro. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'UDC, si deve essere incazzato come una belva. signor Casini ha chiamato Galletti, che è il capogruppo, e ha detto: signor Galletti, chiama quel tassone che non lo vuole nemmeno sentire, no? Cosa avrà detto Casini? Chiama tu Tassone e imponigli le dimissioni. Si dovrebbe dimettere anche da parlamentare, forse, signor Tassone, eh? Forse. No, no, Beatrice lo sa, perché io sono di Radio 24, la Rai. Allora, io lo saluto moltissimo. Vabbè, grazie. Io parlavo nonno del netto, parlavo ovviamente del sì, però molto modesto, molto modesto, capisce che 6.800 euro, molto modesto. Sì, beh, saranno 3.500 in tutto, perciò ed è modesto. Uno pensa che ci siano dei 10, 15, se lei ha qualsiasi direttore generale prende molto di più. Allora lei ovviamente deve farsi un quadro di riferimento più serio, l'auguro sì. Moltissimo. Grazie. Che me la mantengano alla Radio 24. Grazie. Mi auguro anch'io che mi mantengano qua. Che lei fa, ovviamente sono di bassa lega. Va bene, la ringrazio. La zanzara dispettosa fa zazà, è la zanzara capricciosa. E Tassone si dimette, e Tassone si dimette, la la la. Zazà, zazà. Ora si dimette dai vice capogruppo dell'UDC, non conta nulla, queste dimissioni non contano nulla, le cifre restano quelle, le parole restano quelle, eccetera, eccetera, eccetera. Aveva detto che 6.800 euro della sua pensione sono una cifra modesta, ora non è che vogliamo farlo insultare. Chiunque insulta e chiunque minaccia di morte, chiunque scrive parole orribili nei confronti di Tassone, lo prendo e lo strozzo con le mie mani. Va bene. Avete capito? Como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo. In anteprima la canzone che canterà Gianluigi Paragone domani sera, L'ultima parola, ormai è diventata una sorta di cult, come si dice, Parenzo? Cult. Stai sempre pensando a BB, al cane di Mughini, tu? È una sorta di rock. Come politic. Sta BB? Come sta BB? Sempre allora, deportato? BB, il cane, non vi ricordate quello prima, ma il sangue al cervello, se penso all'articolo bellissimo, scritto in modo magistrale, dal grande Mughini, in treno con la mia BB, l'alta velocità accoglie i cani con tappeto e ciotola, finalmente archiviata l'era della deportazione. BB, di BB, io me ne fotto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura. No, prova a cantare se hai coraggio. Prova a cantare se hai coraggio. Mamma mia, che pena. Michele da Napoli, buonasera. Bellissimo. Buonasera, ragazzi. Sono molto più intonato io di te, eh. Michele, dica. Salve, buonasera. Sì, vi volevo dire che mi fate venire mal di testa qualche volta. Perché? No, insomma, voglio dire, quando farete anche voi quello che ha fatto Milano, fate di mettere 10-15 anche voi che avete tanto potere, insomma. Ma non si preoccupi, anche noi diamo il nostro contributo. Su, intanto il signor Milan ha fatto cadere dalla sedia, da una sediola, per carità, ma non è che si il vice capogruppo, il signor vice capogruppo dell'UDC. È un principio. Io le volevo dire che in questo momento sono fuori da Feltrinelli, sì, aspettando che esce l'instabook del Grassottello. Fiorito, però non lo chiami Grassottello, su, non faccia il paraculo. No, per lavoro di Dinson, bello corpulento. Ma lei com'è, magro? Noi ci siamo conosciuti, sono abbastanza tenuto, insomma. Quanto pesa lei, scusi Michele? Sono alto 1,84 e peso 80 kg. Beh, insomma, mi tengo bene, non corro come lei, ma insomma. Però la pancia ce l'ha, diciamo la verità. Bevo molto, mi piace la bella vita. Un po' di pancetta ce l'ha, un po' di pancetta ce l'abbiamo. Allora? Il tema stasera sembra che sia l'antipolitica. Ma quale tema? Lei non ha capito niente. Qui non c'è tema. Sì, il caravanserraglio non deve averlo, effettivamente è vero. Però insomma, le telefonate. Vabbè, allora. E io sono a favore della politica. Ma perché la politica. Michele, mi sta già annoiando. Cosa ci vuole dire? Volevo dire che la qualità della. Non vuole dire niente. Questa è la realtà. Scusate, del caravanserraglio va alimentato con brace viva. Ma lei non vuole dire nulla, ha chiamato e non sa che dire, diciamo la verità. Ho bisogno di sentirvi, vi amo e quindi di conseguenza... Bravo, noi ci fa piacere, lo dica, vi amo. Ma certo, insomma, lo dico a sprombattuto, lo dico a tutte le persone che siete... Un intrattenimento meraviglioso tutti i giorni, non saprei fare a meno di voi. Senta che intrattenitore. Grazie di più. Senta che intrattenitore, ministro dei beni culturali, il signor Ornaghi, il quale ha detto: ho scelto come nuovo presidente del Maxi il ministro per i beni culturali che ha avuto il merito di avviarne il progetto e di intuirne le potenzialità. Ritengo che attingere alle competenze acquisite e consolidate sia il modo migliore per guardare al futuro. Adesso ci vuole far credere che il ragionamento che c'è stato, autonomo, per carità, va tutto bene, il signor Ornaghi sia quello della competenza, eccetera, eccetera. No, non è così. Non è così, non ci credete nemmeno per un, non ci credete nemmeno per un secondo. C'erano tutte le possibilità per scegliere una persona che non faceva parte del Parlamento, che non è uscente dal Parlamento, eccetera, eccetera. Invece si va a pescare chissà perché proprio lì. Se no aumentano i disoccupati. Tra l'altro, proprio nel giorno, per carità, poi non voglio attribuire a Ornaghi delle simpatie politiche, proprio nel giorno in cui la stessa Melandri firma un appello di cosiddetti veltroniani o ex veltroniani a favore di Bersani. Vabbè, ma lasciamo perdere. È con noi, collegato non so da dove, forse dalla sua macchina super veloce come al solito, oppure dalla sua macchina italiana che va meno veloce, Enrico Speroni, Lega Nord. Quanto tempo, capogruppo del Parlamento Europeo della Lega Nord? Beh, sono capogruppo del gruppo... Del gruppo della Lega Nord? Del gruppo Democrazia e Libertà. Cioè di tutto il gruppo, pure degli altri? Pure degli altri. Pure degli altri, come fa? Come sta Francesco Enrico? Io sto bene. Sta bene? Ma dov'è? A Bruxelles? Dove si trova? Sul divano di casa. A Busto? Sono tornato da Bruxelles oggi pomeriggio. Beh, lei lo sai che Speroni ha le presenze, il 100% di presenze? Sì, sì. No, ma sempre sì, lo ma come si fa avere il 100% di presenze? Ma andare lì a tutte le riunioni. Beh, ho capito, però uno una volta avrà un raffreddore. Diciamo, è andata bene che non ho avuto influenze, raffreddori, rotture di gambe o roba del genere. Ma ne sarà capitato una volta. A volte ci sono anche questi, magari qualcuno per un lutto familiare non partecipa o semplicemente l'aereo non arriva, ecco, diciamo che mi è andata bene. È stato fortunato, su. Chi è il peggiore? Una ventina di fortunati. Chi è il peggiore, Speroni? Mica proprio il peggiore degli italiani, quello che è proprio il massimo dell'assenteismo. Guardi, non sto a vedere quello, anche perché... Ma come non sta a vedere? Bisogna vederlo, su. Nel senso, ci sono dei siti in internet dove si può vedere, ci sono le classifiche. De Mita, per esempio, il signor De Mita, lo vede mai lei al Parlamento Europeo? De Mita lo vedo qualche volta a Strasburgo, ecco. Raramente. A Bruxelles è difficile sapere se uno viene o non viene perché gli orari e i giorni delle commissioni sono diversi. Poi, vabbè, ma al di là di questo, lo vedo o no? Le statistiche del 100% sono fatte su Strasburgo. Sì, lo vedo in aula. Poi, io ripeto, non sono lì a contare le presenze degli altri. Posso anche dire, visto che ho il 100%, che non è quello il metodo o comunque l'unico modo per essere un parlamentare è bravo o no. Però magari scusi, lei è l'unico esempio. Magari uno è sempre presente e non fa un cazzo, no? Produce poco, ecco, no, non dico non fa proprio niente, se no, vabbè, è solo lì a scaldare la sedia. Poi tiene presente anche questo, voglio dirlo molto chiaramente, che per presenza non si intende che uno sta in aula 2, 3, 4, 6, 7 ore, arriva, firma e poi anche se se ne va dopo 5 minuti è considerato presente, quindi sono statistiche che valgono fino a... Senta, Speroni, ma qualche altro record? Beh, con la macchina? Con la macchina. No, la macchina. È sempre quello. Sempre quello, rimasto a 300, no, siccome è un po' di tempo che non ci sentiamo. No, uno, ecco, anche lì c'è il sito e39.de e si vedono tutti i record se uno proprio lo vuol vedere. Ah, E39, lei a che punto è di questo record? Il primo? Sono mi pare 22esimo tra i record di velocità in Germania. Di quelli che hanno qualcuno che li filma o hanno un sistema per filmare, che poi hanno così, si divertono a mandare la foto a questo sito, perché poi c'è tanti che magari corrono anche di più e non stanno lì a perdere tempo a mandare le foto. Certo, non c'è dubbio. Dove, vuol dire, ma lei quante legislature ha fatto al Parlamento Europeo? Scusi, Speroni. Dunque, questa che sto facendo è la quarta. Basta, pure lei. Da rottamare pure lei, Speroni. Ecco, no? Adesso bisogna vedere... Ho fatto appena adesso un'indagine proprio perché c'è questa leggenda metropolitana che all'estero ci si molla. Non è vero, non è vero. C'è almeno una decina di colleghi che sono lì da 7 mandati. Ma italiani? 1979. Italiani mi pare di no, sono stranieri. Però ho fatto proprio una ricerca. Sì. Conoscete Giscard d'Estaing, no? Sì, più o meno, ex presidente. Ecco, lui ha fatto dal 56 al 2002 al Parlamento francese. Vabbè, ma è un'eccezione, su. È stato eletto 11 volte. Sì. Nel frattempo è diventato presidente della Repubblica. Sì, ho capito, però scusi, poi dopo Speroni. Ma non è un buon, non è che dobbiamo copiare le cose peggiori. È diventato deputato europeo e per ora sembra aver concluso la sua carriera politica dopo essere stato 3 volte presidente di regione. Vabbè, comunque, ecco. Speroni, io la cosa allora, parliamo di un altro. Ho capito, ma sono casi. In Italia c'è gente che ha fatto 6-7 registrazioni. No, allora, conoscete Ted Kennedy? Sì, sì, Ted Kennedy. È stato eletto 9 volte e ha fatto 47 anni di Senato e ha cessato l'attività. Vabbè, allora, allora c'è un mio conoscente svizzero, Andreas Gross, vabbè, che ha terzo mandato. Vabbè, ho capito, ma adesso Speroni. Ma ci lei sono, se ne va o no? Che fanno una legislatura e basta. E ci sono quelle che ne fanno tante. Ma lei se ne va o vuole rimanere ancora? Io non lo so, non lo dico, fra ho deciso che comincerò a preoccuparmi quando mancherà qualche mese alle elezioni. Siccome si vota il 2014. Scusi un attimo, ma non le pare ridicola questa cosa qua della Lega e del PDL che discutono sulla data delle elezioni? Cioè, in Lombardia. Mi sembra ridicolo qualcuno che dice votiamo il 23 dicembre. Cioè, ecco, siccome poi le elezioni, dovrebbe saperlo questo qualcuno, che si chiama Formigoni, che in Italia si vota in 2 giorni, praticamente si vota la vigilia di Natale. Questo, ecco, forse sarebbe un bel record, almeno nei paesi dove la maggioranza delle persone si professa cristiana. Cioè, ecco, magari in un paese musulmano può andare bene, ma in un paese cattolico, vabbè, meno, ma che maggioranza un po' cattolica, votare il giorno prima di Natale della vigilia, in realtà. Ecco, sì, che la vigilia di Natale mi sembra un pochino assurdo. Vabbè, ma quella è una presente questo. E dunque è una provocazione quella? Io non lo so se è provocazione, però lui l'ha detto. Adesso c'è anche questo fatto. Noi chiediamo di votare nello stesso giorno delle elezioni. Vabbè, Maroni dice che la legge lo prevede. Maroni dice che la legge lo prevede. Beh, però la legge, allora non voglio contrastare Maroni, ci mancherebbe, però la legge parla di elezioni amministrative, di solito si intende una volta quelle per le province, adesso non si vota più per le province. Marco da Milano, buonasera, 800 24 00 24, riprende la zanzara per la volata finale in questo giovedì in cui abbiamo sentito Nicole Minetti pronunciare queste parole. Beh, insomma, in politica non è escluso che ci resti, non c'entra niente con le mie dimissioni. Beh, ragazzi, qui non finisce più, Parenzo, non finisce più. Detto, non è finito, e non finisce qui, come diceva il grande Corrado della Corrida, e non finisce qui. Scusa, ma BB? BB? No, ma perché mi devi rovinare la serata? Perché? Ma possiamo chiamare un attimo il Mughini per capire questa vicenda di... Ma è come se io mi mettessi a parlare dei fattacci miei. Cioè, dire, poi lui, io lo dico semplicemente perché è stato lui una volta in una storica frase della Zanzara quest'estate ad attaccarmi dicendo... Come fate a pagare quello? Ma come fate a pagare quello per dire... E tu adesso ti vendichi dopo aver letto questa mattina un articolo in cui descriveva il viaggio in treno col cane e finita la deportazione perché le Ferrovie dello Stato non so che cosa abbiano deciso attraverso Moretti. Cosa hanno deciso? Se vuoi io posso anche leggerti altri passaggi. No. Marco, allora? Buonasera. Vada. No, mi stavo addormentando dopo che ho ascoltato Speroni, era? Sì. Ero qua, sono in autostrada, mi sono dovuto fermare, mi sono addormentato. Allora? No. Volevo dire, non riesco a capire come mai lei si infervora di fronte a quando uno che interviene dice che bisognerebbe fare la rivoluzione. Ma che vuol dire la rivoluzione, scusi? Me la descriva lei la rivoluzione che vuole fare? Ma no, ma insomma, io abbiamo esempi su esempi che qua l'Italia va male, va tutti male, io vado in giro, sono rappresentante, i costi aumentano, c'è gente che ruba e, allora? E che poi di fronte all'evidenza dice ma non ho fatto niente, ride, si ci siede come fosse un pascià in una trasmissione, ride e prende in giro gli italiani. Ecco, mi scusi. A uno così, io non dico che va messo al muro e tutto. Va in galera, deve Ma chi sarebbe questo? Chi sarebbe quello lì? Fiorito ancora? Fiorito, Belsito, scusi. Lei. Belsito non è in galera. Non è in galera. Ma i soldi a Belsito, a Fiorito, se lei ha 100.000 euro, glieli darebbe? Ma certo che no, ma che vuol dire? Allora io dico, questi politici, come mai si circondano di questa gente? Come mai? Io non lo so. E dunque che rivoluzione vuole fare lei, signor Marco? Beh, io vorrei dei politici seri. Bene. Vorrei dei politici con delle idee nuove, sì. Vorrei della gente, dei dirigenti, sì. Come si deve. Siccome questi... Sì, naturalmente poi quando si entra nello specifico, che idee vogliono, che idee, eccetera, poi uno è vago perché non si capisce bene che cosa... No, Marco, idee, quali idee? Non è che basta dire voglio dei politici con delle idee nuove, bisogna vedere quali idee. Forse se vado a votare Renzi, forse se vado a votare Renzi. Va bene Marco, grazie. Cosimo da Lecce, buonasera. Buonasera. Non capisco niente, Sara da Trento. Sara? Sì, vada. Sì, buonasera. Vada. Mi sente? Sì, la sento, vada. Allora, ascolti, io volevo dire una cosa. Io, siccome ho un lavoro che ho un salotto è frequentato da signore come da Sant'Anchè, e io non la posso più compatire, come non compatisco le persone che frequentano questo salotto. Che vuol dire? Nel senso, signor Cruciani, che se dovessi scegliere una rappresentante mia, preferirei la Minetti alla signora Sant'Anchè. In che senso? E le dico il motivo. Mi dica perché? Sì, perché, scusi, la signora Minetti è stata coerente con le sue idee. La signora Sant'Anchè frequenta tutti i salotti, non si sa chi è. Non ha neanche il suo cognome. Che vuol dire non è il suo cognome? Il cognome del primo marito? Gira bandiera ogni volta che parla, cioè una volta è da una cosa, una volta è un'altra. Vabbè, ho capito. Lei solamente protagonismo e basta. Protagonismo. Come tutte quelle che frequentano i salotti d'Italia. I salotti d'Italia, va bene, grazie Sara. Allora siamo con Enrico Speroni, Lega Nord, Parlamento Europeo. Vuole la Scozia, lei vuole fare come Scozia, Speroni? Almeno quelli possono votare, poi decideranno loro. Lei lo vorrebbe un bel referendum, no? Sulla... Chi è che si dovrebbe mettere d'accordo, secondo lei, per fare una cosa di questo tipo? Un bel incontro, no? Al vertice, tra chi? Beh, è un incontro. Adesso io non ho seguito esattamente le modalità con cui in Scozia... No, però cosa immagina lei? Come si può svolgere questo referendum per l'indipendenza del Nord? Ma secondo me basterebbe che nessuno lo ostacoli, e se a un certo punto i consigli regionali promuovono una consultazione, sì? E basta che non arrivi la forza pubblica a impedirla e si fa la consultazione. Cioè, i consigli regionali dovrebbero promuovere... Votare sì. Una norma per la secessione. Prevedendo questo referendum. Per la secessione. Cioè, dopodiché la gente vota. Mi sembra la cosa più democratica del mondo. Scusi, cioè insomma. Piemonte, Lombardia e Veneto per cominciare? Ma quelli che vogliono. Se vuole Val d'Aosta, la Sardegna, la Sicilia. Il diritto di autodeterminazione non conosce... Beh, ma questo non, questo non succederà mai, perché le forze indipendentiste all'interno dei parlamenti regionali sono limitate. Allora, le forze indipendentiste un conto, bisogna vedere la gente, è che noi in Italia non abbiamo mai avuto la possibilità di esprimerci né quando l'Italia è stata fatta, né adesso che qualcuno, che può essere una minoranza, la maggioranza, ho capito. Non si vota, non possiamo saperlo. Senta Speroni, la cosa che voglio capire perché io... Anche in Spagna, in Catalogna lo faranno. Sì. L'hanno fatto nel Sud Sudan, lo fanno in tante parti del mondo, a quanto pare in Italia la democrazia è limitata. Senta Speroni, però voglio capire una cosa, ma il candidato, il PDL Formigoni dice addirittura pur di non votare uno della Lega o pur di non candidare uno della Lega farebbe vincere la sinistra. Allora c'era quel vecchio detto per far dispetto alla moglie eccetera eccetera, vabbè. Allora... Perché volete la terza regione? Avere... Avete già il Veneto e il Piemonte, pure la Lombardia. Ma intanto non è che vogliamo il dittatore, vogliamo un presidente di regione democraticamente eletto. Quello si capisce. Ecco, e poi, visto che si parla di coalizione, sarebbe sempre condizionato dai movimenti dei partiti che lo sostengono. Ho capito, quindi, ma Albertini e tra Albertini e Maroni, lei chi sceglie? Vabbè, Maroni, come ovviamente vedete? Essendo leghista scelgo Maroni, scegli, con tutta la stima che ho per Albertini, per carità. Per cui tra... Però, voglio essendo, dire... essendo iscritto alla Lega, mi sembra ovvio che devo scegliere. Però Maroni appena, è stato appena eletto segretario, insomma, adesso si candida a fare il governatore del Piemonte. Ma guardi, allora forse non conoscete bene le cose. Chi è il presidente del Piemonte? Cota, che c'entra? Che è segretario della Lega del Piemonte. Ma è diverso, quello è il capo della Lega adesso, Maroni, ha altre cose di cui occuparsi, perché si deve mettere a fare il governatore? Poi dovete rifare tutto un'altra volta. Ma Berlusconi è stato capo del suo partito. Vabbè. E addirittura presidente del Consiglio, non presidente di regione. Ma sì, ho capito, ma sono cose diverse, su. Come sono diverse? No, ma ho capito, ma cioè, potrebbe rimanere a fare il capo della Lega, il segretario della Lega, insieme anche il governatore della Lombardia, se mai dovesse essere eletto. Intanto cominciamo a vedere se si candida e se viene eletto. Poi ci saranno delle scelte eventuali da fare. Vabbè. Ecco, però io non la vedo incompatibile. In ogni caso... Ma c'è un patto o no? Vedo, c'è un patto, secondo ad lei? Ad esempio, scusi... Abbiamo un segretario di partito che si chiama Bersani e che si vuole candidare a fare il primo ministro. Ho capito, ma Bersani poi è stato eletto... Poi magari smetterà di fare il segretario Ma è stato del eletto partito. Nel 2009, quello è stato appena eletto, Maroni, sta ricominciando la Lega, avete ricominciato dopo l'epoca di Bossi. Insomma, no, magari è il caso di restare un po' segretario e poi magari fare il candidato, o no? Ma questo lasciamolo decidere a Maroni. Non sarebbe meglio, secondo lei? No. No. Se Maroni sceglie di candidarsi... Sceglie di candidarsi, penso sia libero come tutti i cittadini italiani, non perché uno ha una carica non può candidarsi a un'altra. Casomai si può dire sarebbe opportuno che dopo l'eventuale elezione scelga. Intanto c'è, scusi un attimo, c'è una allarme bomba a Porto Rotondo, nelle vicinanze di Villa Certosa, della residenza estiva di Berlusconi. Forse dell'ordine di mobilità dove il ritrovamento di un pacco sospetto con la scritta per Silvio Berlusconi. Sul posto al lavoro gli artificieri. Pacco bomba, sembra, pacco sospetto. E dunque allarme bomba vicino Porto Rotondo. Comunque, vabbè, visto che parliamo di incompatibilità, c'è un tale François Hollande. Oddio, ancora sto Hollande, che c'ha? No, che è diventato segretario del Partito Socialista e poco dopo è diventato presidente della Francia. Ma no, non era, è già da un po' che era segretario, credo. No, vabbè, comunque... non da molto. Stefano da Genova, buonasera Stefano. Buonasera. Vada. Allora senta, io ho una proposta provocatoria che riguarda il signor Tassone, ecco, l'avevo scambiato infatti per una nota bevanda. Allora, che mi sembra, lei me lo può confermare, essere un parlamentare dal 76? Dal 76. Benissimo. Allora, questa persona quindi che ha già ricevuto una lauta retribuzione, suppongo, per 35 anni e non mi sembra che neanche parli molto bene l'italiano da quel poco che ho potuto sentire, allora... lo stralcio, adesso si lamenta di 6.800 euro eventuali di vitalizio. Allora io lancio questa campagna: adottiamo un parlamentare. Io sono disposto anche a raddoppiare, a mettere i soldi personalmente, bella colletta, per raddoppiare il vitalizio al signor Tassone e ai suoi compagni. Perché dovrebbe aumentare il vitalizio, scusi? Beh, a patto che facciano una legge che dopo di loro questo benedetto vitalizio magari venga abrogato. Ecco, io se qualcuno lancia una campagna, adotta un parlamentare, io... Ma non mi pare il caso di adottare nessun parlamentare, guardi, cioè io non do un euro a nessuno. Francesco da Bergamo, buonasera. Dunque io mi riferisco ancora all'intervento di Emilio Fede di ieri sera. Ecco. Allora mi chiedevo e chiedo magari anche al vostro pubblico, abbiamo bisogno di Emilio Fede in politica? Prima riflessione. Ma che ne so, ma Francesco, ma cosa vuole che me ne freghi a me? Il signor Emilio Fede è stato direttore, lo sapete meglio voi, quanti anni a TG4? Non so, 20 anni? Non lo so, di più forse. Voi l'avete ancora, io ho seguito poco TG4, ma qualcuno ha sentito ancora il signor Emilio Fede chiedere in diretta nei titoli del telegiornale o durante il telegiornale i signori ricchi diano 1.000 euro ai poveri italiani? Ma l'ha detto... Come mai da ieri sera incomincia a chiedere 1.000 euro? Ma che vuol dire, scusi? Che vuol dire? Cioè perché lo fa solo adesso, dice? Perché lo fa solo adesso? Perché lo fa solo adesso. chiesto prima, solo adesso si accorge che ci sono i poveri in Italia. Francesco, no. Questo non è una domanda così peregrina, è una domanda che ha qualche ragione di essere. Adesso si è accorto che ci sono un sacco di poveri. Francesco, grazie. Giovanni, provincia di Milano. Giovanni. Buonasera, Cruciani. Sì, sì. Buonasera Parenzo. Ascolti, io sono un ex elettore di centrodestra, ex perché dopo l'esperienza con la Moratti e dopo l'ultimo governo Berlusconi direi che ne ho basta. Allora... volevo farle una domanda. Sì. Ma non capisco questo accanimento quasi religioso del PD verso Renzi. Mi sembra un nuovo Giordano Bruno. Accanimento del PD nei confronti di Renzi. Mi sembra che ce l'abbiano tutti. Diciamo diversi dirigenti, anche lui non ci è andato molto leggero. Il contrario. No, il contrario no, ma anche lui non ci è andato leggero. Anzi, stasera ha anche detto... oggi, ieri, stasera, non mi ricordo come si accavallano migliaia di dichiarazioni, ha detto che la parola rottamazione è un po' volgare, eccetera, eccetera, e però è servita per andare sui giornali. Sì, d'accordo, ma... Che è una frase di grande cinismo. Secondo me sono terrorizzati da Renzi. Io le dico, non lo sto seguendo direttamente perché... Allora? Faccio... Vabbè, ho capito Giovanni, ma non sta dicendo una novità. È evidente che hanno un po' paura di Renzi, su questo non c'è dubbio. No, mi sembra molta paura, mi sembra che lo stiano un po' demonizzando. Anche oggi D'Alema ha detto: se Bersani vota e passa alle primarie, io mi ritiro, altrimenti sarà guerra. Insomma, altrimenti farò una grande battaglia politica. Sì, così ha detto. Mi sembra che insomma siano, e credo che la stessa cosa, se fosse sul versante del centrodestra, ci sarebbe alla stessa maniera. Credo che questa classe politica abbia un terrore feroce del cambiamento. Grazie feroce. Giovanni. Cosimo da Lecce, buonasera. Buonasera, signor dottore. Sì, io vorrei parlare un po' su Renzi. Sì. Perché il fatto della rottamazione a me va, però fino a un certo punto. In che senso, scusi? Di rottamazione, questi signori politici dove vanno? Vanno in pensione o puramente vanno a fare il lavoro che facevano una volta? E che lavoro facevano una volta? Dipende, dice lei. I politici di solito sono avvocati, sono giudici, sono quelli che... Ma non lo so, Cosimo, non lo so, queste generalizzazioni tornano a fare quello che vogliono. Alcuni piglieranno il vitalizio e staranno in pantofole con i nipotini, altri torneranno a fare l'avvocato anche a 70 anni, altri torneranno a fare il commercialista, altri ancora. Ma perché mi chiede questa cosa così stupida? Queste sono cose che dovrebbero dire, no? Ma che ne so, ma alcuni, ma c'è gente che non ha più un mestiere, c'è gente che ha ancora un mestiere, c'è gente che ha delle aziende, insomma dipende. Fare un'altra cosa. Io le voglio dire solo una cosa, che voglio vivere. Vivere. È passato tanto tempo a vivere. Che tenterò di aiutare con 1.000 euro al mese alcune delle famiglie più povere. E questo, ma certo, aiutarle a vivere dei miei soldi, 1.000 euro ad ogni famiglia, cioè sceglierò 5 famiglie. Io, ma dovrebbe fare così chiunque? Beh, cercherò attraverso la Caritas, se mi rivolgerò alla Caritas, sono quelle che più hanno bisogno. È passato tanto tempo a vivere. Voglio occuparmi delle casalinghe, voglio occuparmi delle persone che non arrivano alla fine del mese. Oggi ho visto i dati e sono raccapriccianti. È un po' come perdere. Non è un partito politico, è un movimento di opinione. Non avrei la presunzione di fare un partito politico, non ce la farei. Io non mi candido, è un movimento di opinione, vuol dire che faccio il mestiere di giornalista, opinionista come voi. Io voglio aiutare e voglio riprendere il colloquio con tutta quella gente che mi è rimasta affezionata. Sabina da Como, buonasera. Luciani. Certo che farmi sentire prima Fede che dice tutte quelle meraviglie, secondo me il vero valore aggiunto di Fede sarebbe non fargli fare più niente. Sì. Se se ne sta un attimino fermo, ecco, è grande guadagno. Ma fa quello che vuole Sabina, che puoi impedire a Fede di fare qualcosa, non ho capito, con quale diritto? Col diritto ma col diritto di che? Con l'arroganza, con che cosa? Fa quello ma che arroganza? Avrò il diritto anche di dire che non mi piace. Ma certo. Cosa? Non le piace che lavori? Non le piace che faccia qualcosa? Che vuol dire? Certo, non le piace, ho capito, ma che significa? Questo non significa impedire a una persona di fare un movimento, di fare quello che vuole. La obbliga a seguirlo. Sì, ma di cazzate ne spara. Vabbè. E io ho il diritto di dire che spara cazzate. Sì, quello sì, figuriamoci. Quello è. Poi un'altra cosa. Sì. Forse ho trovato la giustificazione o la motivazione di tutti i suoi bei me ne frego. Sì. Ma che vuol dire? Perché probabilmente avere un lavoro con sì. un stipendio corpulento. Sì, lavoro corpulento, sì. Corpulento. Va bene? Allora? Rispetto al mio che non c'è, è corpulento. E allora? Ecco, vuol dire che un conto è sentir parlare di sfighe, un conto è viverle sulla pelle. Quindi anch'io se avessi uno stipendio sarei così più... Vabbè, a cuor leggero, ha detto la stronzata delle 20.54. Su, cara Sabina, la ringrazio. Mi saluti Como, la stronzata delle 20.54 e 28. Senti, da Sabina, da come scusa? Soffre perché chi non ha il lavoro. Vabbè, soffrirà. Pazienza, che devo fare? Cioè, pazienza, l'abbraccio fortissimo, sì, l'abbraccio forte, però ha detto una stronzata. Ci sentiamo domani 18.30. Vi voglio bene, vi adoro, vi do un bacio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Chiedimi! Radio 24. La passione si sente.